504. Ranocchi alla Fiorentina. Togliete i ranocchi dall'acqua fresca, dove li avrete posti dopo averli tenuti per un momento appena nell'acqua calda, se sono stati uccisi da allora. Asciugateli bene fra le pieghe d'un canovaccio e infarinateli. Ponete una teglia al fuoco con olio buono e quando questo comincia a grillettare, buttate giù i ranocchi. Conditeli con sale e pepe, rimuovendoli spesso perché si attaccano facilmente. Quando saranno rosolati da ambedue le parti, versate sui medesimi delle uova frullate, condite anch'esse con sale e pepe e sugo di limone, piacendovi. Senza toccarle, lasciatele assodare a guisa di frittata e mandate la teglia in tavola. Ai ranocchi va sempre tolta la vescichetta del fiele. Volendoli fritti, infarinateli e prima di buttarli in padella, teneteli per qualche ora in infusione nell'uovo, condito con sale e pepe, oppure, dopo infarinati, rosolateli appena da ambedue le parti e presi uno alla volta, immergeteli nell'uovo condito con pepe, sale e agro di limone, rimettendoli poscia in padella per finire di cuocerli.